Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata, la prima puntata della settimana di Focus Economia, e partiamo subito scoppiettanti. Come avete già capito, se avete ascoltato i nostri GR, la notizia forse più importante all'interno del vertice italo-francese, che è la notizia più importante di oggi, riguarda la vicenda Parmalat. Anch'io sono caduto in un lapsus, perché Parmalat non viene come notizia dal vertice Berlusconi-Sarkozy, ma piomba sul vertice Berlusconi-Sarkozy nel giorno in cui i due leader hanno discusso di Schengen, della Libia e anche dei rapporti, diciamo, di interscambio non solo commerciale ma anche azionario e societario tra Italia e Francia. È arrivata la notizia che il colosso francese del settore lattiero-casero Lactalis, che già aveva comprato il 29% di Parmalat, quindi proprio sotto la soglia che rende l'offerta pubblica obbligatoria, quella del 30%, oggi ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto volontaria, per cui non è un'opera obbligatoria, e l'ha lanciata su tutto il gruppo Parmalat. Stiamo cercando di capire il valore dell'intera operazione, che dovrebbe essere intorno, per quello che un'eventuale controfferta, secondo quello che riporta l'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 miliardi di euro, quindi tanta roba per l'accordata che sta cercando di organizzare il gruppo Intesa San Paolo. 5 miliardi sono una mezza manovra finanziaria, sono tra l'altro l'aumento di capitale molto grosso che ha fatto lo stesso gruppo Intesa San Paolo, per cui si tratterebbe di trovare tantissimi soldi. L'offerta lanciata da Lactalis è un'offerta che, appunto, essendo volontaria, si applica a tutte le azioni Parmalat, a chi volesse consegnarle, ma soprattutto viene lanciata sul 71% del capitale. In questo caso Lactalis dovrebbe pagare, se tutti consegnassero le azioni, fino a 3 miliardi e 370 milioni di euro. Diverso se uno volesse lanciare un'offerta su tutto il resto di Parmalat, lì costerebbe sui 5 miliardi. Però il prezzo offerto è 2,6 euro per azione, che incorpora un premio del 13%. Il prezzo ufficiale dello scorso 21 aprile era 2,3 euro per azione. È chiaro che oggi il titolo sta facendo il botto e sta guadagnando in questo momento l'11%, ma lo guadagna da inizio, ma da quando è arrivata la notizia. Siamo a 2,56 euro, quindi siamo vicinissimi ai 2,60 euro offerti da Lactalis. Il titolo si è già posizionato sui livelli dell'offerta, praticamente come era ampiamente immaginabile. Il premio di circa un 20% in più rispetto alla media del prezzo di Parmalat in questi ultimi 12 mesi è un po' più basso rispetto ai 2,80 euro pagati a suo tempo da Lactalis per comprarsi dai vari fondi la quota di Parmalat, e questo è il fronte, diciamo, più caldo. In realtà poi nel vertice italo-francese si è discusso anche di altre cose, e di oggi l'uscita dal gruppo Edison, che è partecipato da Electricité de France, quindi EDF, l'Enel francese, e dalle municipalizzate di Milano e Brescia A2A, dicevo, l'uscita di scena di Umberto Quadrino. I francesi hanno messo il loro uomo e il loro responsabile per il sud Europa. Resta ancora in ballo, anche se non si capisce bene lo sviluppo, la vicenda Groupama Fondiaria SAI. Insomma, il timore di una calata francese sui grandi gruppi italiani, che già sono pochi, è un timore reale, e poi lo racconteremo. E senza citare la conquista di Louis Vuitton Moinessi di Bulgari, e anche il ruolo che hanno i francesi in Mediobanca in generale. Pensate alle posizioni prese in queste settimane da Vincent Bolloré, che è di Mediobanca al 5%, e comunque i francesi hanno il 10% complessivo di Mediobanca e il 13% delle generali. E di questo parleremo in apertura. Poi continueremo a parlare di finanza, perché oggi una bellissima inchiesta su Sole 24 Ore di Claudio Gatti certifica quello che noi molto più modestamente notavamo da mesi, se non un annetto buono, e cioè che la finanza americana e Wall Street ha ripreso a fare esattamente quello che faceva prima. Questo si vede non solo dagli utili tornati a essere miliardari delle grandi banche d'affari, non solo dai bonus, dei mega bonus tornati a piovere sui manager, ma anche dalle operazioni che, con cui si ottengono questi risultati, operazioni di nuovo ad altissimo rischio. Non hanno imparato nulla e nessuno, se mi permettete, ha voluto insegnargli nulla, visto che la famosa riforma di Wall Street si è arenata di fronte al potere delle lobby della finanza americana anche nei confronti della Casa Bianca. E la borsa come va? Per il resto più 0,46% Milano, più 0,50 Parigi, più 0,70 Francoforte, più 0,70 Londra, più 0,70 anche l'America. Oltre a Parmat c'è Pirelli che guadagna il 3,90, Fiat il 3,30 e Steam Microelectronics più 2% come Xor, Finmeccanica più 1,90 come Tods, l'1,5% lo guadagna A2A e anche Telecom Italia, l'1,3% è il rialzo di Prismian. Chi perde? Di nuovo la Popolare di Milano meno 1,5%, Tenaris meno 1,2%, Buzzi Unice meno 1% come Snam Rete Gas, Fiat Industrial meno 0,80%. L'ultima cifra, come sempre, quella per i vostri sms, 349-238-6666. Dicevamo che la giornata oggi è soprattutto italo-francese, ci sono altre notizie, chiaramente l'oro è in leggero calo a $1,495, il petrolio in leggero rialzo a $112 al barile, l'Euribor, il tasso interbancario europeo di riferimento su cui si calcolano poi i mutui a tasso variabile, è salito quello a tre mesi all'1,36%, ed è un nuovo balzo. Tra l'altro su questo arrivano notizie pesanti su quello che ormai si chiama il fronte greco, diciamo. Perché da un lato l'ente statistico europeo Eurostat ha certificato che nel 2010 la Grecia ha sfondato anche il tetto del deficit che aveva promesso di tenere, era al 9,5%, è arrivata al 10,5%, ma non è tanto questo a preoccupare sulla Grecia, è l'andamento dei titoli di Stato greci che continuano a salire quanto a rendimenti. E ricordo, fino alla nausea, più alto è il rendimento di un titolo di Stato, più vuol dire che tu sei a rischio perché devi offrire tanto per trovare dei sottoscrittori per il tuo debito. Allora, l'interesse, il tasso di interesse sulle obbligazioni a due anni greche è arrivato al 24%, è un record storico. Ripeto, quando l'Argentina fu dichiarata insolvente aveva obbligazioni che viaggiavano intorno al 9%. Quello sui BTP a 10 anni è schizzato al 15%, e anche questo è un dato preoccupante, cioè se rendono di più le obbligazioni a breve che quelle a lungo, quelle a 2 anni rispetto a quelle a 10, vuol dire che i timori sono di una non tenuta dello Stato adesso, subito, a breve, e sul futuro chi lo sa. Insomma, c'è quasi 10 punti di differenza di rendimento tra un bot greco a 2 anni e un BTP greco a 10 anni. Tant'è che uno dei consiglieri economici del cancelliere tedesco Angela Merkel, Lars Feld, ha detto: Atene sarà costretta a procedere a una ristrutturazione del debito, che vuol dire rinegoziare tutti i debiti contratti. Se tu non sei in grado di pagare, vai a ristrutturarlo. Questo vuol dire, dovrebbe farlo quanto prima. E secondo José Manuel González Paramo, che è praticamente uno dei membri della Banca Centrale Europea, il crack e la ristrutturazione, per essere più corretti, del debito greco avrebbe effetti più devastanti del crack di Lehman Brothers, quello che ha dato là al precipizio della crisi finanziaria nel 2008. Anche sul Portogallo si addensano le nubi, per essere buoni. La differenza tra quanto rende un titolo di Stato portoghese e quanto rende l'equivalente tedesco è arrivata a un nuovo record, 631 punti, cioè il 6,3%. Quanto rende un bot portoghese? Quasi il 10%, al 9,57%. I titoli portoghesi a due anni rendono l'11,5%. È una cosa enorme. E poi, secondo quanto riportano alcuni quotidiani portoghesi, gli emissari della cosiddetta Troica, cioè la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea e il Fondo Monetario Internazionale, starebbero consigliando al governo portoghese in cambio del pacchetto di aiuti, di dare al posto della tredicesima e della quattordicesima ai vari dipendenti pubblici portoghesi titoli di Stato. In rialzo oggi anche i rendimenti delle obbligazioni spagnole e anche italiane, buona comunque la domanda, 12 miliardi e 200 milioni per un'offerta di 8 miliardi e mezzo, BOT e CTT italiani rendono l'1,66%, vabbè, insomma una bella differenza tra il 10% portoghese e anche e soprattutto diciamo, il 15% greco. Vedo già molti messaggi su Parmalat, va bene, adesso parliamone subito. Io partirei subito con la dichiarazione di Berlusconi su Parmalat. Ripeto, l'annuncio è arrivato mentre il vertice era in corso, per cui Berlusconi stesso sembrava non essere informato e nemmeno Sarkozy. Sarkozy ha detto banalmente, ma sono due gruppi privati, io e Berlusconi crediamo all'economia di mercato. Sentiamo invece cosa ha detto il Presidente del Consiglio italiano. Io non considero l'OPA una OPA ostile. È naturalmente singolare che venga lanciata questa mattina, il giorno stesso del nostro incontro a livello del Presidente Sarkozy, mio e dei nostri ministri. Ma proprio per questo escludo nella maniera più sicura che ci potesse essere da parte del governo francese la consapevolezza questa sovrapposizione della visita e dell'OPA. Per quanto riguarda invece le speranze per il futuro, ci sembra che sia una strada da seguire quella di dare vita a dei grandi gruppi internazionali franco-italiani, italo-francesi. E noi ci auguriamo che gli imprenditori italiani possano avanzare delle proposte affinché si possa magari non portare a termine l'OPA, ma stabilire un accordo con una partecipazione italiana insieme all'Actalis, che come il Presidente Sarkozy ha ricordato è il maggiore acquirente dei prodotti di Parmalat. Berlusconi auspica che si creino gruppi italiani-francesi, franco-italiani, però insomma il dato di fatto è questo, che mentre c'era un vertice così importante, ripeto, le priorità erano la Libia e Schengen, però l'Actalis ha annunciato appunto che lancia un'offerta pubblica e il mercato la sta seguendo, perché è vero che non è ancora 2,60 euro il titolo, ma insomma è a 2,56 euro, ci siamo quasi, anzi 56,4 l'ultimo prezzo. Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore, che ha seguito il vertice italo-francese a Villa Madama, buonasera. Buonasera a voi. Di Parmalat parleremo ampiamente dopo, per cui vorrei un attimo dare il quadro complessivo in cui si inserisce un annuncio, ripeto, vedo molti messaggi, non è stato annunciato dai due partecipanti al vertice, da Berlusconi e Sarkozy. È arrivata... Dimmi. Diciamo questo, ci sono due livelli diversi, cioè c'è quello che è il frutto delle dichiarazioni nel corso della conferenza stampa e quindi dichiarazioni ufficiali, che fa stato di una intesa, di un clima assolutamente positivo. E poi però ci sono degli elementi di un dietro le quinte che lascia immaginare invece che ci sia ancora qualche cosa di cui discutere del lavoro, perché per esempio lo stesso Sarkozy, quando dice che per facilitare un avvicinamento delle parti nella vicenda Lactalis Parmalat, Italia e Francia metteranno in campo due consiglieri stretti di Palazzo Chigi e dell'Eliseo, e per l'Eliseo sarà il segretario generale dell'Eliseo, Xavier Muscat. Beh, significa, di solito è sempre stato così, no? Che quando non c'è un vero accordo si fa un comitato, quindi evidentemente ci sono ancora dei punti da chiarire, al di là della dichiarazione e di considerare come dire, le aziende totalmente svincolato da un controllo statale. Sì, io però devo dire una cosa, già il decreto, quello salva Parma, tanti OPA, non è che ci convincesse molto, perché i settori strategici esistono, ci mancherebbe, e lo sono l'energia, il settore aerospazio, difesa e quant'altro, però insomma un gruppo privato come la Parmalat che interessa un altro gruppo privato come l'Actalis, è difficile intervenire con le regole europee, è difficilissimo. Comunque vi do le proporzioni, Parmalat vale circa 4 miliardi e 300 milioni di euro come giro d'affari e ha una buona liquidità in cassa, 1,5 miliardi, che è frutto di tutti i contenziosi, le azioni revocatorie messe in campo da Bondi contro soprattutto le banche. 14.000 dipendenti, opera in 16 paesi, ha 69 stabilimenti, parlo di Parmalat, e ha il principale mercato di sbocco, pensate, il Canada, il 37%, più ancora dell'Italia, che è il 22% del mercato. L'Actalis è più grande, ha 10 miliardi di euro di giro d'affari e 38.000 dipendenti. Però non vorrei restare impantanato, diciamo, solo su Parmalat e l'Actalis. Perché te lo dico? Perché in realtà oggi insomma, si è discusso dei rapporti, al di là di questa vicenda, tra i due paesi. Allora, l'obiezione che sta mossa qual è? Perché se noi andiamo a guardare le cifre, Gerardo, più o meno le partecipazioni italiane in Francia e le partecipazioni francesi in Italia si equivalgono, sono sui 30 miliardi, prego. 30 miliardi, esattamente, esattamente. Però c'è una differenza, come dire, dimensionale del tipo di aziende che vanno a investire. Mentre le aziende italiane che investono in Francia sono tutte piccole o medie aziende, e Sarkozy ha detto, noi guardiamo con ammirazione, avete le più brave piccole e medie imprese del mondo, eccetera, le imprese francesi che vengono a investire da noi sono imprese di grandi dimensioni. Allora, come è uscito un po' da questo vicolo cieco Berlusconi? Dicendo, creiamo delle grandi aziende italo-francesi e franco-italiane che siano in grado di competere sui mercati globali, cioè dei campioni non più nazionali ma campioni europei e forse mondiali. E non so se un wishful thinking o un'ambizione, un'utopia, però certamente è una cosa che fa leva, soprattutto in un momento in cui i due personaggi, cioè Berlusconi e Sarkozy, parlano a un elettorato che è fatto anche di imprese, di imprenditori, di operatori, e hanno la necessità di recuperare terreno su dei sondaggi che, per quanto riguarda Sarkozy, sono assolutamente negativi rispetto alla destra di Marine Le Pen per le presidenziali del maggio dell'anno prossimo, e per Berlusconi non sono più così, diciamo, da maggioranza bulgara. Ecco. Adesso, quindi, adesso ci arriviamo ai problemi dei due leader. Vorrei però far sentire quando tu accennavi, ossia, da un lato Sarkozy che ha detto, forse per fare anche indorare la pillola, io non ci credo personalmente che l'Actalis non avesse avvisato l'Eliseo che oggi lanciava un'offerta pubblica su Parmalat nel giorno in cui Sarkozy era a Roma. Però vedo che molti commentatori ufficiali dicono no, non c'era nessun tipo di telefonata. Ma comunque, sentiamo Sarkozy, a mio avviso, un po' indorare la pillola e dire ma attenzione, l'Italia è un bellissimo paese, ha una piccola e media impresa che noi invidiamo, abbiamo sistemi complementari. In campo economico, anche qui vorrei dire agli amici italiani, siamo il secondo partner commerciale, gli uni per gli altri, e vogliamo rendere omaggio al dinamismo dell'economia italiana. Gli italiani, voi italiani sapete che la bilancia commerciale fra Francia e Italia è deficitaria per la Francia ed è creditrice per l'Italia? Vengo a dirlo qui, perché a volte mi chiedo se si conosce la realtà, se si conoscono le cifre. Rendo omaggio ai vostri imprenditori, avete un tessuto di piccole e medie imprese che suscitano la nostra ammirazione e che hanno molti clienti in Francia. Ma il deficit fra l'Italia e la Francia lo paga la Francia. Va a scapito della Francia. Siamo più dinamici, ma da un punto di vista economico non c'è discussione. Il presidente Berlusconi ha ragione quando lo dice: avete le migliori piccole e medie imprese, noi abbiamo dei grandi gruppi potenti, quindi non c'è motivo di farsi la guerra. Come Sarkozy che ha ricordato un dato vero, cioè quanto noi esportiamo in Francia è più alto di quanto noi importiamo dalla Francia, per un vantaggio di 730 milioni di euro. Ti faccio sentire, tu l'hai già sentita chiaramente Gerardo, anche invece il passaggio di Silvio Berlusconi in cui dice insomma, auspico gruppi italo-francesi che facciano i player a livello mondiale. Nella mia esperienza uno compra, uno è cacciatore, l'altro è preda. Non ho mai visto funzionare i gruppi paritetici. Anche la vicenda EDF, Edison EDF la dice lunga. Comunque sentiamo l'auspicio di Berlusconi. Io naturalmente ho anche una mia posizione personale su queste cose. Io vengo da una storia imprenditoriale e quindi sono convinto che l'economia deve essere sempre e assolutamente libera. Quando gli stati possono intervenire? Possono intervenire quando si tratta di settori che mettono a rischio la loro sicurezza o il loro ordine interno. In tutti gli altri settori la concorrenza deve essere libera. La Francia ha ultimamente fatto degli interventi su aziende italiane. In Francia le grandi aziende sono forti, sono importanti. Non così in Italia, dove la nostra forza risiede nelle piccole e medie imprese. E le nostre piccole e medie imprese sono numerose in Francia, sono più di 1800, e dobbiamo anche ricordare che le esportazioni italiane in Francia sono superiori alle esportazioni francesi in Italia. E quindi io credo che è sulla base di questa realtà che noi dobbiamo guardare ai fenomeni che il mercato ci propone. E è auspicio comune di arrivare a creare dei grandi gruppi internazionali franco-italiani, italo-francesi, che possono stare bene dentro la competizione globale. Vabbè, Gerardo, insomma, questo è anche il tentativo di mettere così una, non dico una pezza, ma insomma ammantare di una collaborazione, come tu ricordavi. Una collaborazione che è stata difficile in questi mesi, e non solo per la Libia, Gerardo. Scusa se ti interrompo, Sebastiano, anche perché lo stesso Sarkozy comunque ha parlato di tensione, dice ci vorrà, ha detto Sarkozy, un po' di tensione per mettersi d'accordo, cioè, quindi ha confermato che i due governi lavoreranno con questi due personalità indipendenti, di alto profilo, eccetera, però ha ammesso che c'è tensione. Allora, per non, ripeto, limitare tutto l'incontro a una cosa che è piombata dall'esterno, cioè Parmalat, dopo il metro, la pubblicità, vorrei concludere con Gerardo Pelosi su altri tre temi rapidamente. Uno, il nucleare, perché lì è interessante leggere anche tra le pieghe delle dichiarazioni. L'altro è il fronte Edison ed EDF. E infine Mario Draghi, perché molti ascoltatori scrivono, ma insomma l'Italia ha barattato la Parmalat per ottenere l'appoggio francese di Mario Draghi alla presidenza della Banca Centrale Europea. Non è esattamente così, a mio avviso. Comunque vorrei sentire la tua opinione dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per gli sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, prima di arrivare alla borsa, vi confermo che il titolo Parmalat ha chiuso con un più 10,73%. E dicevamo con Gerardo Pelosi, non solo il dossier Parmalat e i dossier chiaramente Libia e Schengen, ma anche la parte nucleare. Faccio ascoltare questi due passaggi, prima di Berlusconi e poi di Sarkozy. E su questo, insomma, è interessante anche notare e leggere tra le pieghe di queste dichiarazioni. Berlusconi. Noi siamo assolutamente convinti che l'energia nucleare sia il futuro per tutto il mondo. L'accadimento giapponese, a seguito anche dei sondaggi che noi abitualmente facciamo sull'opinione pubblica, ha spaventato ulteriormente i nostri cittadini. Se fossimo andati oggi a quel referendum, il nucleare in Italia non sarebbe stato possibile per molti anni a venire. Il governo quindi responsabilmente ha ritenuto di introdurre questa moratoria per evitare il nucleare, per far sì che si chiarisca la soluzione giapponese e per far sì che magari dopo un anno, dopo due anni, si possa ritornare ad avere un'opinione pubblica consapevole della necessità di ritornare all'energia nucleare, che tra l'altro è sempre molto più sicura. Quella centrale giapponese era costruita su un terreno che non avrebbe dovuto consentirne la costruzione. Le centrali francesi sono così sicure da essere addirittura resistenti a un attacco atomico. E noi con la Francia abbiamo stipulato molti contratti, la nostra Enel con l'azienda francese, contratti che non vengono abrogati. Naturalmente non sta a me giudicare la decisione presa dal governo italiano e posso anche dire che ne capiamo i motivi. E sappiate che il giorno in cui gli amici italiani decideranno di tornare indietro rispetto a questa decisione, la Francia sarà un partner accogliente e amichevole. Ecco quanto tenevo a dirvi, perché tutto ciò che suscita paura obbliga a fare una cosa. E non dimentichiamo che i nostri compatrioti in Francia, come in Italia, vogliono essere scaldati, vogliono essere illuminati. Allora, al di là del commento del fatto che Berlusconi ha chiarito in maniera molto netta e sincera, devo dire che la moratoria è stata fatta solo per evitare il referendum, evitare la bocciatura del referendum, e il governo non ha mollato l'intenzione di andare avanti sul nucleare. Questo va detto. Sapete cosa ne pensiamo? Noi pensiamo che, insomma, scelte di politica energetica non si debbano fare mai sull'onda emotiva, mai sui sondaggi, mai guardando magari disastri recenti. Sono scelte importanti che vanno ragionate e poi, una volta prese, però anche perseguite. Comunque, Gerardo Pelosi, interessante questa voglia dei due leader di sottolineare che qualora l'Italia cambiasse idea, EDF e Enel sono pronte. Sì, questo è chiaro. Consentimi innanzitutto di spiegare un poco agli ascoltatori la genesi di queste dichiarazioni di Berlusconi. Una tua domanda, se non ricordo male. No, io ero il quarto giornalista, dopo due francesi e un italiano, a fare delle domande. Non era stato affrontato due aspetti, secondo me, e cioè che fine fa il nucleare, e dopo un anno fa c'era stato questo grande accordo, e soprattutto se c'era questa volontà di chiudere il contenzioso Lactalis, eccetera, che fine farà il decreto salva, il decreto antiscalate? Al decreto antiscalate Berlusconi non ha risposto perché tempo non c'era più, e alla domanda di Sarkozy, che io ho rivolto a Sarkozy, se era deluso dell'atteggiamento italiano, della moratoria italiana, ha risposto Berlusconi. Quindi questa è la genesi, come è andata in realtà poi la conferenza stampa. E lì Berlusconi ha evidenziato, ha chiarito qual è la vera posizione dell'esecutivo sulla moratoria, e cioè che la moratoria serve per aggirare un referendum che dopo l'incidente giapponese sarebbe stato assolutamente, avrebbe bloccato il nucleare. Sì, avrebbe avuto anche il quorum probabilmente sugli altri referendum, cioè sull'acqua, perché qui il problema è non solo il nucleare, ma anche che in questo modo forse non si arriverà al quorum sugli altri referendum e quindi verranno annullati. Prego. Berlusconi dice comunque l'Enel continuerà col suo 12,50% a creare il nuovo reattore a Flamanville in Normandia insieme a EDF, che doveva servire da test, da banco di prova, per sì, i sacrifici dell'Enel, per poi costruire 4 reattori. Proprio un anno fa, il 9 aprile, all'Eliseo, durante un analogo vertice italo-francese, Sarkozy si complimentava, si congratulava per il rientro dell'Italia nel nucleare, per il fatto che Enel e EDF avessero raggiunto questo accordo, che l'Italia avesse scelto la tecnologia francese per 4 reattori, eccetera, eccetera. Quell'investimento lì rimane. Mentre il 4 per i 4, diciamo le 4 centrali in Italia, non c'è nulla, tutto non ci sono penali, certo, e quindi è soltanto, come dire, un congelamento. Allora, ultimo aspetto, devo andare veloce, e riguarda Mario Draghi, che è candidato dall'Italia, la Germania finalmente l'ha appoggiato. Sentite Sarkozy sulla candidatura di Mario Draghi alla presidenza della Banca Centrale Europea. Lo appoggiamo perché è italiano, ma lo appoggiamo perché è un uomo di qualità, ma è in più, è anche italiano. sarà un ottimo segnale da trasmettere a tutti gli italiani che possono mettere in dubbio il ruolo e il posto che occupa l'Italia in Europa. È importante che un italiano abbia questo incarico e sono stato felice di sentire la Presidente Berlusconi che sarebbero pronti a sostenere la candidatura di un francese nell'ambito del direttorio della BCE. Domanda facilissima, è Parmalat il prezzo per avere da un lato un accordo di massima su Schengen, ma soprattutto avere Draghi alla presidenza della Banca Centrale Europea? Credo di no, sono partite troppo diverse, sono piani diversi, si giocano in sedi diverse con giocatori diversi. In realtà il via libera, l'appoggio di Sarkozy alla candidatura di Mario Draghi viene dopo il sostegno della Merkel, in particolare dal ministro delle finanze Wolfgang Schäuble, che secondo alcune indiscrezioni ha lasciato proprio trapelare l'appoggio esplicito a Draghi. Sì, e sì. Quindi a quel punto il Sarkozy, non avendo più altri interlocutori, altri candidati, Trichet va via, ha detto vabbè, appoggiamo Draghi. Lui ha detto non lo appoggio perché è italiano, ma perché è un bravo banchiere e anche italiano, esattamente questo ha detto. Però in cambio ci sarà su quella partita lì il fatto che l'Italia appoggerà un francese nel board della BCE. Sì, tra l'altro devo dire che peggio mi sento, perché almeno se fosse stata una partita in cui noi ottenevamo Draghi, adesso la butto un po' calcisticamente, loro ottenevano Parmalat, alcune operazioni potevamo andare all'1-1. Se invece i francesi appoggiano Draghi solo perché in questo modo seguono la decisione tedesca e otterranno anche un consigliere, secondo me la partita è finita un po' 2-1. Questa è la mia sensazione, ma poi lo chiederemo nella seconda ora del programma a Jean-Paul Fitoussi, che conosce bene, essendo nel consigliere, sia il governo francese che il governo italiano. Intanto grazie a Gerardo Pelosi in collegamento con noi per aver seguito tutta quella conferenza stampa di Sarkozy e invece anche spiegata. E Berlusconi, adesso la borsa. Eleonora Micheli, Radio Colli sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Di Parmalat abbiamo appena parlato, parleremo più avanti, vorrei solo capire una cosa, il prezzo è vicinissimo al livello dell'OPA ma non proprio lì. E fanno notare alcuni ascoltatori, hanno anche ragione, eh? Esatto. 2,56 la chiusura. Esatto, i titoli sono saliti del 10,73% a 2,56 euro. Evidentemente il mercato non sta ancora ragionando, o non sta proprio ragionando, sull'eventualità di una contro-OPA. Esatto, cioè al massimo immagina che vi sia l'offerta di Lactalis, perché sennò non andrebbe a vendere, dici tu, le azioni a 2,50 euro. Chiaro. Esatto. Ancora Pirelli più 4%, buona soprattutto in chiusura. Sì, oggi si è mosso bene tutto il comparto auto europeo, più 2,14% il sottoindice Stock 600, il comparto auto e anche i comparti affini all'auto. La scorsa settimana, giovedì per l'esattezza, la concorrente Michelin ha pubblicato dei conti trimestrali molto buoni, superiori alle attese degli analisti, e quindi questo ha spinto in alto un po' tutto il settore. Poi oggi in aggiunta anche i conti trimestrali di Ford sono stati ottimi, si tratta della tredicesima trimestrale, cioè della trimestrale più buona degli ultimi 13 anni, e di conseguenza questo ha dato il là un po' agli acquisti su tutto il comparto auto e ovviamente anche su Pirelli, che si è mossa al rialzo. Pirelli comunque pubblicherà i propri conti trimestrali il prossimo 6 di maggio. Bene, anche oggi è di nuovo Fiat Auto più 3,5% dopo l'annuncio che è arrivato che è arrivata la Fiat al 46% di Chrysler. Sì, esatto, oggi ripeto si è mosso bene tutto il settore auto, non ha fatto eccezione Fiat, che peraltro beneficia dell'annuncio della scorsa settimana. Intanto si sono pronunciate le agenzie di rating esprimendo giudizi che tuttavia non hanno mosso i titoli, perché d'altra parte se Fitch e Moody's hanno messo sotto esame con un possibile abbassamento il rating del lingotto, Standard & Poor's invece ha confermato sia l'outlook per la società torinese sia ovviamente il giudizio sui bond. Quindi i titoli, anzi, si sono mossi al rialzo e hanno chiuso quasi sui massimi. Poi bene, Steam Microelectronics questa sera diffonde i dati, più 2,12%, bene la controllante di Fiat Exor, più 2,12% anch'essa, Todds più 2%, Finmeccanica più 1,80%, A2A più 1,40%, come Telecom Italia e Prismian. Perde la Popolare di Milano meno 1,5%, Tenaris meno 1,40%, Buzzinice meno 1,26%, Fiat meno 1%, Snam Rete Gas meno 0,90%. In una battuta, prima di chiudere, che è successo a Full Six? Ora, Parmat oggi è il caso di borsa, ma Full Six ha guadagnato l'8,7% e nelle ultime settimane e mezza ha guadagnato il 160%, può essere? Esatto, i titoli hanno guadagnato oltre il 160% dallo scorso 12 aprile, cioè nelle ultime 9 sedute. Il 12 aprile infatti si è tenuta un'udienza in tribunale per la causa che Full Six ha aperto contro VPP per condotte anticoncorrenziali. A questo punto il mercato scommette che a breve la stessa Full Six possa ricevere un maxi risarcimento, visto che il tribunale pare favorevole alla posizione di Full Six, e di conseguenza fa salire le azioni che, appunto, ripeto, dallo scorso 12 aprile hanno inanellato un progresso dietro l'altro. Ancora il peggior titolo, Yorkville, BHN, meno 9,88%, Ross, meno 3,81%, poi Telecom Italia Media sul risparmio, meno 18%, grazie Eleonora Micheli, il traffico e poi i lupi che perdono, o gli squali, che perdono il pelo ma non il vizio. Bellissima inchiesta oggi su Sole 24 Ore, la firma di Claudio Gatti, lo temevamo, ma insomma, i bankers, gli dei dell'Olimpo americani che hanno generato la più grande crisi degli ultimi 50 anni sono tornati a farsi egregiamente e di nuovo i fatti loro. Negli ultimi 2 anni hanno venduto derivati. Oltre ai subprime, swap, future, qualunque spazzatura. Sapevano che l'illusione dei mutui avrebbe fatto crollare il mercato. E quando il crollo si è avverato, si sono fatti comprare i titoli tossici dal governo senza perdere un dollaro. Questo è l'impero del male, io ero un dilettante. Io sono una mezza tacca rispetto a loro, ragazzo. Il sistema è insolvente, nessuno sa cosa fare dopo, eccetto ripetere la follia fino a che non scoppia la prossima bolla. E sarà quella vera, quella grossa, come la storia dei tulipani, ricordi? Di nuovo profetico Oliver Stone, di nuovo profetico Gordon Gekko, interpretato di nuovo da Michael Douglas. Wall Street, il denaro non dorme mai. Eh sì, perché insomma quello che stava raccontando Gordon Gekko è quello che si sta ripresentando non solo come festa dei bonus, per cui chi ha avuto ha avuto, chi ha dato e intanto i grandi manager sono tornati a darsi 23 milioni di euro Jamie Dimon, JP Morgan, più 57% l'anno scorso il guadagno di Jamie Dimon rispetto al 2007, quindi a prima del crack. Lloyd Blankfein, Goldman Sachs, 19 milioni di dollari, mentre gli utili della banca sono in calo del 38%. John Stumpf, Wells Fargo, 17 milioni e mezzo di dollari. Bob Dimon, Barclays, una banca praticamente fallita, quasi, poi salvata, rotta di cuffia, 16 milioni di dollari di bonus. James Gorman, Morgan Stanley, 14 milioni di dollari di bonus. Brian Mohan, Bank of America, che continua a perdere da 2 trimestri, però lui si è preso 9 milioni di dollari di bonus. Cosa ha scoperto l'inviato del Sole 24 Ore a New York, Claudio Gatti? Lo chiediamo direttamente a lui. Claudio, buonasera. Buonasera a voi. Al di là dei bonus, che questo l'avevamo capito, sui bonus, al di là del fatto che le banche sono tornate a immaginare utili, c'eravamo almeno illusi, per non dar ragione a Michael Douglas, Gordon Gekko, che avessero cambiato i tipi di investimenti. Invece tu cosa hai scoperto? Beh, in questo momento è chiaro che il mercato ancora ha moltissima liquidità, perché ci sono investitori a rincorso di rendimenti soddisfacenti che non sono facili da ottenere in questo, con un'economia che ancora non riprende bene. E poiché il mercato è di fatto ancora deregolato, perché la riforma finanziaria approvata a luglio dell'anno scorso non ha avuto ancora norme attuative, quindi di fatto non ha ancora cambiato nulla nelle prassi, prassi a rischio, operazioni sul filo del rasoio sono ricominciate con ritmi sorprendenti. Dacci, lo so che poi la gente si arrabbia, sta rientrando dalla Pasqua, magari gli roviniamo le vacanze, ma dacci il livello, per esempio i titoli ad alto rischio, i derivati finanziari, quelli che furono imputati anche giustamente di avere amplificato la crisi, a quanto lo sono adesso? Beh, adesso il prodotto che va per la maggiore si chiama ETF, sono Exchange Traded Funds, sono dei fondi indicizzati su materie prime, commodity, titoli, eccetera. I primi sono partiti nel 1993, ma non erano particolarmente popolari. Adesso hanno raggiunto e superato i 1.300 miliardi di dollari. E proprio pochi giorni fa il Financial Stability Board, che è presieduto dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che si occupa del controllo delle politiche monetarie e la stabilità finanziaria del mondo occidentale e non, ha lanciato un allarme dicendo che stanno nascendo le nuove generazioni di questi fondi sintetiche, quindi derivate, che quindi non hanno più come sottostante un titolo o una commodity, un indice di borsa, dei prodotti derivati da questi. Sono, come dicono loro, dei prodotti che hanno generato sviluppi inquietanti in alcuni segmenti del mercato. Allora, i derivati finanziari valgono oggi 600 mila miliardi di dollari, che per far capire a tutti vuol dire 40 volte il PIL americano in un anno, cioè 40 anni di crescita economica americana è il valore in questo momento di tutti i prodotti derivati, a cui sommiamo poi anche il valore dei fondi molto speculativi, molto a rischio, gli hedge fund, sono 2.000 miliardi di dollari. Tu ricordavi gli ETF nati come fondi molto tranquilli per investire su un indice, adesso sotto non c'è più l'indice ma c'è di nuovo un derivato, e siamo a 1.300 miliardi di dollari, e poi gli ABS, Asset Backed Securities, derivati legati al finanziamento per l'acquisto di un'auto e quant'altro, hanno raggiunto i 18 miliardi di dollari. Domanda: è possibile che Obama aspetti lo scoppio della nuova bolla in maniera così tranquilla, o vuol dare un segnale alla sua opinione pubblica, visto che i bonus se li sono già elargiti i top manager, si fa per dire. Prego. Allora, certamente Obama non sta aspettando nessun'altra bolla, l'ultima cosa di cui ha bisogno a un anno e mezzo di distanza delle elezioni è una nuova bolla. Il problema è che ormai il Congresso, almeno la Camera, è nelle mani dei repubblicani, e i repubblicani sono già tornati a parlare il linguaggio della deregulation che li ha contraddistinti per gli ultimi 30 anni. La cosa più grave, direi, è proprio questa, e cioè che tra i 3.000 lobbisti mobilitati da banche, hedge fund e industria finanziaria e i repubblicani, adesso è molto più difficile per Obama e per i democratici far passare delle norme attuative severe. Quanti sono i lobbisti pagati dalle banche da Wall Street? 3.000 hai detto? Ci sono circa 3.000 nel 2010, sono stati attivati, quindi dopo il passaggio della riforma molti di loro, perché appunto la battaglia è sulle norme attuative che stanno combattendo proprio in questi giorni, facendo pressioni sulle varie autorità di vigilanza, le 5 autorità di vigilanza, le agenzie federali che devono definire queste norme. Certo, perché poi tu puoi fare anche una riforma, se poi la svuoti con i decreti attuativi gli fai solletico agli dei dell'Olimpo americani. Certo che insomma la situazione si complica, anche perché vedo molti messaggi su questo, non possiamo parlare, devo tornare su su Parmalat. Torneremo, vi invito a leggere però l'inchiesta di Claudio Gatti e anche l'analisi di Mario Platero oggi sul Sole 24 Ore. Visto che lo chiedete, vi faccio riascoltare anche il Gordon Gekko in seconda versione, quello quasi pentito del sistema che aveva creato da dilettante. Claudio Gatti, grazie. Negli ultimi due anni hanno venduto derivati, oltre ai subprime, swap, future, qualunque spazzatura. Sapevano che l'illusione dei mutui avrebbe fatto crollare il mercato. E quando il crollo si è avverato, si sono fatti comprare i titoli tossici dal governo senza perdere un dollaro. Questo è l'impero del mare, io ero un dilettante. Io sono una mezza tacca rispetto a loro, ragazzo. Il sistema è insolvente, nessuno sa cosa fare dopo, eccetto ripetere la follia fino a che non scoppia la prossima bolla. E sarà quella vera, quella grossa. Come la storia dei tulipani, ricordi? Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, due precisazioni nel collegamento con Claudio Gatti, che, ripeto, ha scritto una bellissima inchiesta oggi su Sole 24 Ore su come i banchieri americani, le banche d'affari americane siano tornate a usare gli strumenti pericolosissimi del pre-crisi, del pre 2008, e questo, ripeto, fa il paio con i mega bonus che sono superiori in alcuni casi a quelli che si davano nel 2008, che si danno gli stessi banchieri. Gli ETF a rischio non sono gli ETF che si comprano in Italia, quelli che investono sull'indice di borsa, lo dico perché giustamente alcuni me l'hanno scritto, sono gli ETF cosiddetti sintetici, cioè quelli che sotto non hanno un indice di borsa ma hanno strumenti derivati. Quindi anche chi dice: ma come, ho comprato un ETF? Ma non importa, se l'ETF è sull'indice di borsa, è uno strumento che riproduce il paniere dell'indice di borsa, è uno strumento tranquillissimo da questo punto di vista. Detto ciò, torniamo a occuparci del tema del giorno, dopo aver analizzato per buona parte della prima ora l'incontro Italia-Francia su anche gli altri temi. Edison, tra l'altro, poco fa è arrivata la conferma che è fuori Umberto Quadrino e Bruno Lesquer, che era uno dei vicepresidenti di EDF, che partecipa dentro Edison. Dicevo, Bruno Lesquer è il nuovo numero uno di Edison. Gli ha conferito infatti l'assemblea del CDA di Foro Bonaparte, gli ha conferito le relative deleghe, e quindi un francese va a controllare Edison. E nel frattempo, come stiamo raccontando da circa un'ora, Lactalis ha lanciato nel giorno del vertice italo-francese un'offerta pubblica di acquisto volontaria su Parmalat. Allora, ne parliamo con chi queste cose le conosce bene, anche per il ruolo che ha, e mi riferisco a Jean-Paul Fitoussi, che è docente all'Institut des Études Politiques di Parigi e all'Università Louis di Roma, consigliere sia del governo francese che del governo anche italiano, presidente del Centro Studi Osservatorio Francese di Congiuntura Economica. Buonasera, professor Fitoussi. Buonasera. Allora, poi entriamo nel dettaglio dell'operazione Parmalat, che è quella, diciamo, che ha scatenato tutto, ma insomma, dopo che si veniva da Louis Vuitton su Bulgari, con la spada di Damocle di Air France su Alitalia, il tentativo di Groupama di comprarsi Premafin e la sostanziale defenestrazione del numero uno di Edison, Quadrino, perché EDF ha voluto mettere lì il suo responsabile sull'Europa, c'è chi dice: beh, tutto mancava tranne che l'annuncio, mentre era in corso un vertice tra Berlusconi e Sarkozy, che i francesi di Lactalis lanciano una bella offerta su Parmalat. È uno scacco, uno smacco? No, non direi questo. Direi che dimostra che i politici non possono molto davanti alle regole europee. C'è quello che loro vorrebbero fare e quello che possono fare. Nessun governo può impedire un'impresa privata di fare un'OPA. Dunque Parmalat l'ha fatto quando l'ha voluto, e né il presidente Sarkozy né il primo Berlusconi non potevano impedire questo. Però sa che noi italiani siamo anche maliziosi ed è un po' strana la coincidenza che questa offerta pubblica di acquisto venga lanciata, questa scalata su Parmalat, nel momento in cui c'è una conferenza stampa. Berlusconi l'abbiamo sentito dire, insomma, neanch'io me l'aspettavo, ma mi dicono che sia amichevole. Non è stato un po' strano il tempismo? Non è che alimenti i sospetti? No, forse questo è una strategia di impresa, perché per avere il massimo di pubblicità Lactalis ha scelto questo momento, perché a questo momento tutti pensano a questo e dunque ha il massimo successo nella sua comunicazione. Credo che non era il frutto di un'intesa precedente tra il presidente Sarkozy e il presidente di Lactalis, no, non lo credo nemmeno un secondo. Credo che è una strategia di impresa anche intelligente. Cioè di annunciare un'operazione mentre Sarkozy e Berlusconi sono lì che fanno un accordo di massima che va dalla Libia a Schengen a poi i rapporti futuri. È interessante questa sua prospettiva. Mi dica una cosa però, se lei fosse italiano, noi non è che in questo programma abbiamo mai così difeso l'italianità ad ogni costo. Chi è sul mercato, se è un privato, deve stare sul mercato. Però se lei fosse italiano, non troverebbe singolare, non avrebbe anche lei una sindrome da accerchiamento, viste tutte le operazioni che ho appena ricordato, Francia su Italia? Sicuramente sì. Ah. e cosa mi risponde? Mi sento un po' italiano io. Ecco. E dunque, no, il problema è che viene il torno di ogni paese. La Francia è stata circondata un periodo con operazione, per esempio, Mittal-Arcelor. Il governo non voleva, ma che si è fatta, perché c'erano le regole europee. Dunque il problema è, piuttosto che di badare alla nazionalità delle imprese, bisogna pensare a fare campioni europei, ma per questo manca un statuto dell'impresa europea. E dunque quello che accade adesso è che ogni paese deve difendere la sua economia e i suoi gioielli di imprese, ma nessuno ha veramente la capacità di farlo. Allora è un gioco di poker, si fa un po' di rumore per fare paura all'avversario, tra virgolette, che è l'impresa straniera che vuole comprare l'impresa nazionale. E quindi, insomma, lei ammette che anche se lei fosse completamente italiano, avrebbe anche lei il senso dell'accerchiamento, però, insomma, questo c'è un turno per ogni paese, come ha detto lei, e questo mi sembra il nostro turno. Mancano le grandi... Il nostro turno per una ragione. Sì. Perché credo che l'anno 2010 è stato un anno dove gli utili delle imprese francesi sono stati altissimi e dunque hanno del denaro per comprare. Auguro che l'anno prossimo le imprese italiane avranno un utile così grosso e così possono fare il loro mercato altrove. Però c'è chi fa notare che, emergeva anche oggi in conferenza stampa tra Berlusconi e Sarkozy, che in realtà il numero di partecipazioni in Italia, italiane in Francia e francesi in Italia, come valore è più o meno simile, 30 miliardi di euro. La differenza è che noi, per il tipo di struttura e sistema di impresa che abbiamo, abbiamo medie e piccole imprese che comprano medie e piccole imprese francesi. Voi avete grandi imprese francesi che comprano medio-grandi imprese italiane, a parità di valore complessivo. So. No, lo so, ma questa è una struttura che dipende sia dalla storia, dell'industrializzazione dei paesi, sia dalle leggi, e notevolmente dalle leggi sul lavoro. C'è in Italia una legge che fa un incentivo negativo alla crescita delle imprese. L'articolo 18. Sì. E dunque non conviene in Italia di diventare grosso, di diventare una grande impresa. In Francia, al contrario, le imprese le più grandi sono quelle che beneficano di più della politica pubblica. Eh sì, questo è un altro aspetto. Ma c'è anche un altro paradosso, che la Francia invidia all'Italia il fatto che ha un tessuto di piccole e medie imprese, che non ha. Sì, e siamo anche più forti della Francia sulle esportazioni, per esempio. Detto questo, non mi ha ancora risposto alla prima domanda, cioè tra Berlusconi e Sarkozy, che sono due leader che hanno bisogno, per motivi diversi, di aumentare il consenso interno, Sarkozy forse più ancora di Berlusconi, visto i sondaggi in Francia. Ma insomma, la partita com'è finita secondo lei? 1-1? 2-1? 3-0? No, io non direi questo. 1-1, diciamo. 1-1. Ma in verità... L'Italia fa bella figura, perché sono sicura che l'Italia ha avuto certi compensi nell'accordo che è stato passato. Beh, compensi non ufficiali? No, ufficiali perché non conosciamo, perché sono sicuro che ci saranno soci italiani nell'impresa che nascerà dalla fusione tra Lactalis e Parmalat, per esempio. Quindi lei è convinto che vi siano state delle garanzie di Sarkozy a Berlusconi? Sono convinto, ma questo è... Però, mi scusi, però allora questo vuol dire che Sarkozy in qualche modo gestiva l'operazione Lactalis. Lei mi ha detto che nasceva per caso, no? No, è un gioco di influenza. Ah, ecco. Solamente un gioco di influenza. Se le imprese non vogliono ascoltare, le imprese possono fare quello che gli pare. Ma mi dica un'ultima cosa, in verità... Ma lei veramente pensa che Lactalis non abbia avvisato Sarkozy oggi che stava per lanciare un'OPA su Parmalat dopo tutte le tensioni anche politiche che questa aveva creato? Lei pensa che Non lo credo. Perfetto, grazie, io mi fido, ne sa molto più di me, sia della Francia, sia dei rapporti anche economici tra Italia e Francia. Le auguro buona Pasqua in ritardo, grazie Jean-Paul Fitoussi. In collegamento con noi da Parigi. Mentre però parlavamo con Fitoussi, ci ha raggiunto in studio Alessandro Praterotti, vice direttore del Sole 24 Ore. Lo vedevo scuotere leggermente la testa. Ciao Alessandro, innanzitutto. Buonasera a voi. Beh, traffico e poi la tua analisi anche con la partita Edison, perché nel frattempo tutto oggi succede, appunto Lescoeur è l'uomo che prende il posto di Umberto Quadrino, francese, dentro una società che era italiana, che in questo momento è gestita sia da EDF che da A2A. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, e allora restiamo sul tema di Parmalat. Bevete più latte sicuramente per i bambini, bisogna capire se latte francese o latte italiano. Alessandro Praterotti, due cose mi hanno sorpreso le dichiarazioni di poco fa di Jean-Paul Fitoussi. La prima, che dice ma gli italiani avranno ottenuto qualcosa alla fine nella vicenda Parmalat, e la seconda che ha detto ma no, siamo un pareggio, in realtà non sembrava nemmeno così convinto. Alessandro. Beh, due, probabilmente sulla carta due vittorie gli italiani hanno ottenuto. Il primo è che quelle quattro condizioni che sostanzialmente il governo italiano non ufficialmente aveva posto ai francesi sono state accolte, e mi riferisco: Parmalat deve restare quotata, un'OPA totalitaria, il conferimento di asset alla Parmalat, cioè fare della Parmalat il polo europeo del latte. Questo si riferiva a Fitoussi. Non vedo un'altra posizione, un'altra soluzione al un ruolo italiano nella nuova Parmalat, anche perché se ci fosse stato un soggetto industriale italiano pronto a farsi avanti per la Parmalat non ci sarebbe stato bisogno dei francesi, ma l'avrebbe fatto con Banca Intesa. E poi soprattutto, ecco, la sede che rimane a Parma. Parma che rimane quindi sede di Parmalat, ma anche il principale ponte della Francia sul mercato alimentare italiano. Il Crédit Agricole è proprietario della Fiera di Parma, e certo, è il finanziatore di Lactalis nell'OPA sulla Parmalat, i veicoli finanziari, i fondi sia di Lactalis che di Crédit Agricole hanno fatto incetta di imprese alimentari italiane proprio nella zona del Parmense, che quindi controlla Cari Parma e Friuladia, e esattamente Agricole. Quindi vediamo sia sul piano finanziario che su quello industriale un baricentro italiano importantissimo per il gruppo francese. Questa può essere considerata tra virgolette una vittoria, perché in realtà si tratta di una sconfitta che è sul piano industriale, perché malgrado i vari tentativi fatti per più di un mese, due mesi anche, da Banca Intesa di trovare un finanziatore, un soggetto industriale pronto a intervenire, non l'ha trovato. E perché anche la stessa Cassa Depositi e Prestiti, che era tanto determinata per conto del governo a mandare in porto l'acquisizione di Parmalat, non di Parmalat Granarolo, non c'è riuscita. Che cosa succederà? La contropartita, quella francese, probabilmente l'energia. Quello che si pensa è che il bilanciamento all'operazione Parmalat sia sostanzialmente un ritiro di EDF dal mercato italiano, o almeno dal mercato milanese dell'energia attraverso Edison, con un possibile spezzatino con A2A che si prenderà alcuni asset, Eni ed Enel che potrebbero prenderne altre che appartenevano ai francesi, quindi ricomprarle loro. E in questo modo abbiamo salvaguardato l'italianità di una parte importante del mercato energetico italiano. E l'energia è sicuramente un settore strategico, non per l'Italia, per tutti i paesi più del latte. Questo esistono leggi anche apposite, la ragione Tremonti ricordare che in Francia l'energia è un settore strategico. Alessandro? La vera domanda che bisogna porsi oggi è: che cosa faremo degli strumenti che abbiamo messo in campo dopo l'offerta di Lactalis? E mi riferisco al fondo strategico e al ruolo della Cassa, che addirittura ha modificato lo statuto. Quindi se il governo italiano vuole in questo senso dare un'immagine di serietà, dovrà dare corpo e anima a un piano industriale che aveva lanciato attraverso Cassa Depositi e Prestiti. Come a dire, se quel decreto lì non è stato fatto solo per salvare la Parmalat, visto che non ci sono riusciti, a questo punto deve dimostrare che serve a qualcosa, altrimenti cade la maschera e si capisce che quel decreto era stato fatto solo per cercare di mettere a riparo Parmalat. Ma a fini elettorali, direi. O a fini elettorali, ma questo abbiamo visto anche un Berlusconi sul nucleare, che ha detto molto candidamente: noi l'abbiamo fatto perché sennò perdevamo il referendum, non abbandoniamo il nucleare. Vorrei far sentire Berlusconi e Sarkozy su Parmalat uno dopo l'altro, e poi chiederti che cosa c'entra, che ci azzecca la difesa, o meglio il supporto francese alla candidatura di Mario Draghi. Molti ascoltatori pensano che sia anche questo parte dell'intera partita di giro. Io non considero l'OPA una OPA ostile. È naturalmente singolare che venga lanciata questa mattina, il giorno stesso del nostro incontro a livello del Presidente Sarkozy, mio e dei nostri ministri. Ma proprio per questo escludo nella maniera più sicura che ci potesse essere da parte del governo francese la consapevolezza questa sovrapposizione della visita e dell'OPA. Per quanto riguarda invece le speranze per il futuro, ci sembra che sia una strada da seguire quella di dare vita a dei grandi gruppi internazionali franco-italiani, italo-francesi. E noi ci auguriamo che gli imprenditori italiani possano avanzare delle proposte affinché si possa magari non portare a termine l'OPA, ma stabilire un accordo con una partecipazione italiana insieme a Lactalis, che, come il presidente Sarkozy ha ricordato, è il maggiore acquirente dei prodotti di Parmalat. Allora, Alessandro Praterotti, non riesco a farvi sentire Sarkozy, l'abbiamo già sentito nella prima ora, ha detto semplicemente: sono due gruppi privati in economia di mercato, io non intervengo. Sì, vabbè. La partita di Mario Draghi rientra in questo, cioè la candidatura appoggiata anche dalla Francia, o invece la Francia si muove solo perché la Germania ha detto ok e sta a coda? La Francia si muove perché non aveva un candidato francese da lanciare, in quanto l'attuale governatore della BCE è già francese, quindi è in uscita, non aveva un candidato suo. Il tradizionale dualismo franco-tedesco fa sì che rispetto al candidato tedesco, che è saltato un mese fa, rimanesse solo Draghi. La Francia non ha nessuna obiezione su Draghi, e a sostenere l'Italia in questo momento aiuta a ribilanciare la spinta tedesca, per cui non vedo niente di collegabile alla Parma. E allora, anche per te, la domanda che abbiamo fatto poco fa, Fitoussi, com'è finita? 2-1, 1-1, 3-0, mi sembra che tu lo scrivi. 3-0 per la Francia. Ecco, perfetto, una nota diplomatica nel finale del programma. Grazie Alessandro Praterotti. Volete riascoltare il Gordon Gekko ancora per bellissima l'inchiesta di Claudio Gatti che vi abbiamo raccontato oggi in, In sintesi, vuoi dire anche qualcosa sull'inchiesta? Sì, voglio dire questo, che l'inchiesta di, che è uscita oggi sarà seguita già sul giornale di domani da due appuntamenti importanti. Una seconda inchiesta di Carlini e Borzi, sempre sui signori. Questa volta racconteremo chi sono i signori dei derivati, cioè chi li produce e chi li vende. Cinque banche fanno quasi il 95% del mercato mondiale. Ma ci sarà anche un interessantissimo forum con proprio con Corrado Passera, Gaetano Miccichè e Marco Morelli, i tre vertici di Banca Intesa, anche sulla partita parlante. Che mi sembra che a questo punto loro stiano per lasciare, ma lo leggeremo domani su Sole 24 Ore. Grazie Alessandro. Grazie Pattarotti. A voi, a presto. Domani vi faccio risentire anche il nuovo Gordon Gekko, perché torneremo sulla vicenda dei banchieri d'affari americani che sono tornati con i vecchi vizi. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, vi lascio alla nostra programmazione. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.